Buongiorno, sono Luca. Oggi è il 16 agosto 2020. Vi faccio un audio brevissimo, una pillola di speranza e di ottimismo che però prevede una consapevolezza nell'agire e anche dal punto di vista cognitivo. E io non ho nessuna bacchetta magica, non ho polvere magica, non, in questo momento. Non mi pronuncio nemmeno sui rimedi o sulle vie seguite da terzi, volevo soltanto porre per l'ennesima volta l'accento su una questione toccata da me, dall'avvocato del Foro di Udine che mi ha rappresentato nel contenzioso civile contro il Ministero dell'Istruzione per tentare di riportare non solo mio figlio, ma tutti i bambini vittime di allontanamento, sospensione o esclusione scolastica a causa dell'inadempienza della legge 119 del 2017 sui vaccini. È una questione che è stata toccata, oltre che da me, dall'avvocato Michele Rodaro del Foro di Udine, nel contenzioso civile in cui io ero parte in causa, anche da questo giurista che diverse volte è stato interpellato da me e da altri genitori. Ha partecipato a convegni, è stato anche intervistato da me alcuni anni fa, che è il professor Daniele Trabucco, esperto di diritto costituzionale. Al centro di questa mia pillola c'è la Carta di Nizza, o Carta di Strasburgo, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e c'è l'articolo 117 della nostra Costituzione della Repubblica. L'avvocato Michele Rodaro ha posto l'accento sul rispetto della Carta di Nizza. Questo è andato agli atti presso il Tribunale Civile di Trieste, sia di fronte al giudice ordinario in primo grado, sia nel reclamo, nel contenzioso, avverso l'ordinanza di rigetto del nostro ricorso d'urgenza. Anche il collegio del Tribunale di Trieste si è trovato il richiamo alla Carta di Nizza. Il professor Trabucco, interpellato da me dopo l'esito del contenzioso civile, quindi ha esito di sconfitta perché il nostro reclamo nel contenzioso civile del 2019 è stato rigettato dal Collegio del Tribunale di Trieste. Il professor Trabucco ha posto l'accento a mia esplicita domanda sul rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quindi non soltanto dei diritti costituzionali. Articolo 34 della Costituzione della Repubblica, la scuola è aperta a tutti, primo comma. Vi sono tutta una serie di diritti dei cittadini europei che in parte coincidono con la tutela delle garanzie costituzionali e in parte, in un certo senso, questi diritti tutelati dalla Carta di Nizza sembrano trovare maggior tutela rispetto alla Carta costituzionale. La riforma del titolo V della Costituzione della Repubblica con la legge costituzionale numero 3 del 2001 ha previsto la riforma dell'articolo 117. Vi leggo l'articolo 117 perché il professor Trabucco ha ribadito che, a suo parere, umile parere, il Collegio del Tribunale di Trieste avrebbe dovuto rimettere il giudizio, quindi gli atti, al Palazzo della Consulta, quindi sospendere il giudizio e rimettere il tutto in via incidentale alla Corte Costituzionale per quanto riguarda il mio contenzioso. Perché? Perché l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica recita quanto segue: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Questo è il primo comma dell'articolo 117. È evidente che, siccome alcuni anni fa c'è stata una specifica sentenza della Corte Costituzionale che ha trattato appunto il rispetto del diritto comunitario e quindi dei diritti fondamentali della Carta di Nizza, oltre che dei diritti costituzionali, e il Palazzo della Consulta ha stabilito che il giudice ha detto, nel dubbio, qualora vi sia una manifesta non infondatezza di legittimità costituzionale e al contempo un'apparente violazione dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea, quindi una violazione dei diritti sanciti dalla Carta di Nizza, ecco che la Corte Costituzionale ha indicato al giudice che se vi è la possibilità, certi requisiti sono rispettati, il giudice può disapplicare la legge e applicare direttamente il diritto comunitario, quindi la carta di Nizza, oppure rimettere il giudizio al Palazzo della Consulta e quindi alla Corte Costituzionale. Tutto questo discorso perché? Perché nell'ambito della tutela della salute pubblica, quando si entra nel conflitto con l'autodeterminazione del cittadino o comunque dell'essere umano, e quindi si ha necessità di un bilanciamento, per cui a volte l'autodeterminazione del cittadino deve retrocedere rispetto a esigenze di tutela della salute pubblica, ecco che ordinanze regionali o leggi regionali che impongano una vaccinazione coercitiva o leggi nazionali che impongono una vaccinazione coercitiva devono fare i conti con i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea. La Carta Costituzionale, all'articolo 117, prevede che la Repubblica Italiana debba rispettare quelli che sono i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Siccome la Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, è vincolante giuridicamente per l'Italia dal 2009, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, questo significa che l'articolo 3 sull'integrità psicofisica e il principio del consenso libero informato, nonché altri diritti che prevedono la formazione scolastica, il diritto all'istruzione, il diritto alla non discriminazione, il diritto di un cittadino a veder rispettati comunque i suoi diritti che nessuna legge può annullare fino a schiacciarli completamente, quindi il recepimento del principio di proporzionalità del diritto comunitario, l'articolo 52, ecco, tutti questi diritti della Carta di Nizza possono essere invocati quando viene adita l'autorità giudiziaria e possono essere invocati tutte le volte che il cittadino si confronta con una autorità, compresa quella sanitaria. Io mi auguro di avervi dato spunti di riflessione e avervi dato degli appigli giuridici per farvi forza, perché è evidente che si è scatenato un clima terrificante, una vera e propria psicosi collettiva, e si è perso il senso della misura, il senso della misura delle cose, e si stanno guastando i rapporti umani, i rapporti sociali, le relazioni interpersonali, e questa cosa è pregiudizievole e può arrecare danno anche alla salute, perché è evidente che la definizione di salute, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è stata stabilita alla fine degli anni 40, è ancora in vigore. E questa definizione prevede che la salute non è solo assenza di malattia, assenza di infezione, assenza di contagio, ma è un completo stato di benessere psicofisico che include anche le relazioni sociali, le relazioni interpersonali. Mi auguro di cuore che nell'imminenza della riapertura scolastica e subito dopo vi sia un quadro normativo o di rango primario o sublegislativo più definito, di modo che un'eventuale azione che si prospetterà, ecco, sia potenzialmente fruttuosa. Io vi chiedo di restare molto centrati perché stanno succedendo diverse cose in ambito politico, in ambito sociale, e qualora dovessimo affrontare un periodo molto difficile dal punto di vista sociale, politico, sanitario, restate centrati, restate calmi, restate un riferimento e un esempio per i vostri figli. Restate saldi nei vostri valori come l'acciaio, come una spada temprata, e restate però gentili nel vostro animo con chiunque avete davanti. Ciao a tutti da Luca Scantamburlo.